In collegamento telefonico con Valerio Bispuri per parlare della sua mostra fotografica al Museo di Roma in Trastevere, dal 25 gennaio al 25 di febbraio. Valerio, benvenuto. Grazie, benvenuti a voi, grazie a tutti. Sì, la mostra è inaugurato ieri, ma da oggi è aperta al pubblico e durerà per un mese, appunto, fino al 25 di febbraio. Allora, Paco e Drug Story, ci racconti un po' di questa storia? Sì, è una storia lunga, un lavoro durato 14 anni, dal 2003 al 2017. E Paco è una droga che è nata in Argentina nel 2001. È fatta con i residui della cocaina, praticamente dalla crisi economica argentina del 2001 hanno il residuo della cocaina che prima buttavano, hanno deciso di riciclarla e venderla a un prezzo irrisorio. Oggi ancora una dose di Paco costa 50 pesos, sarebbero 2 euro, ed è un micidiale perché è vero che l'effetto dura qualche secondo, 20 secondi più o meno, ma è 20 volte più forte di una dose di cocaina, per cui proprio il volto si trasforma e nel giro di 6 mesi, un anno, perdi la connessione con la realtà e fino a portarti alla morte. Quindi è una droga molto molto forte che sta distruggendo una generazione, non solo in Argentina ma in parte del Sud America. Ecco, volevo proprio chiederti a livello sociale che impatto ha. È un impatto devastante perché è iniziata così, come una droga inventata in un momento di crisi economica del paese argentino e poi si è sviluppata a macchia d'olio proprio per il fatto che costa così poco e che ha un effetto così importante, così forte. Quindi addirittura adesso circola nelle feste piccolo borghesi, Paco non è più solo la droga dei poveri o la droga delle favelas, che dice miseria, ma è anche una droga che ha preso piede ed è diventata tra virgolette di moda ed è uscita dall'Argentina, adesso anche in Cile, Paraguay, Uruguay, Perù, insomma varie parti del Sud America è diventata una droga comune, diciamo, ed è micidiale. Senti, quando sei venuto a conoscenza di questa storia e quando hai deciso poi di farne un reportage? Ma io vivevo in Argentina all'epoca, la droga è cominciata a circolare nel 2001, io proprio dal 2001 sono andato a vivere in Argentina fino al 2011, 10 anni. Ho sentito però parlare di Paco per la prima volta nel 2003, circolava questo nome, ne parlavano piccoli giornali, piccoli articoli, e mi sono chiesto che cos'è Paco, ho cominciato a informarmi, a capire, fino a che un giornalista della Nación, un giornale argentino, mi ha dato il nome di una persona che lavorava per una favelas in una vicia miseria, dicendomi si occupava di questi ragazzi che fumavano Paco. Ho contattato lei e da lì è iniziato un po' il percorso, che più che altro è stato all'inizio un percorso di conoscenza, non solo fotografico, di capire che cos'è il Paco, cosa gira intorno al Paco, chi sono le persone che vendono, che consumano, insomma tutto un lavoro di conoscenza. Perché per poter raccontare bisogna prima conoscere, questo lo penso, per questo anche a volte i lavori devono durare anni, perché se no si arriva soltanto a una superficie, non si va in profondità. Sì. Senti appunto che dinamiche si muovono intorno a questo fenomeno. È proprio dinamiche molto molto importanti, perché poi il Paco è legato a una corruzione che c'è in Argentina come in altri paesi del Sud America, per cui non è solo collegato al narcotraffico, ma a una mafia sudamericana, quindi anche a livello politico, insomma ci sono meccanismi per cui è quasi impossibile. L'ambiente in cui nasce Paco è proprio un ambiente povero, della vicia, delle favelas, dove non c'è nulla. Una cosa importante che è determinante, secondo me, anche per molte condizioni, non solo di Paco, ma proprio di povertà e di delinquenza, che nelle favelas c'è l'assenza completa dei padri, della figura maschile, per cui i bambini nascono e vivono in povertà solo con madri, zie, che a loro volta sono costrette a o spacciare o comunque delinquere, perché i padri sono persi, sono in galera, sono morti o spariscono, quindi c'è completamente l'assenza della parte maschile e questo fa sì che tutto è tutto più complicato. Esistono strutture che affrontano il problema? Non statali, cioè non ufficiali, sono tutte strutture, piccole strutture che si muovono all'interno di queste favelas e cercano di vivere col volontariato, cioè cercano di fare qualcosa con donazioni, ma tutte private. A livello pubblico c'è veramente quasi niente, quindi è molto molto molto difficile riuscire a occuparsi, a fare veramente qualcosa di concreto, anche perché Paco ha una dipendenza totale per chi lo fuma, quindi ci vorrebbe veramente un lavoro molto importante. Senti, dicevi chiaramente che c'è una connessione tra la povertà e la diffusione di questa droga. Qual è la condizione e le aspettative dei giovani in Argentina e non solo nel Latino America oggi? La parte povera è in continua crescita, e proprio questo tipo di droghe come Paco la rendono ancora più difficile, perché poi è stata un po', tra virgolette, un'invenzione nata in un momento di crisi, perché l'Argentina nel 2001 non aveva proprio i soldi neanche per mangiare, quindi anche i narcotrafficanti non potevano spacciare droga perché non c'erano venditori, compratori, scusami, quindi si è dovuto inventare questo tipo di droga che costava pochissimo ed era fatta proprio con quello che loro prima del 2001 eliminavano, perché era dei residui proprio della cocaina. E non vedo grandi prospettive per i giovani in questo momento, non solo in Argentina ma proprio in Sud America in generale, perché anche quelli della medio borghesia sono in una condizione di corruzione tale, di sistema politico così difficile e complesso, che non vedo, non sono molto speranzoso, però è importante che si conoscano questo tipo di realtà anche in Europa, in posti dove, insomma, lontani, perché sono drammatiche. Senti, ci parli anche un po' del tuo percorso professionale? Sì, come no? Beh, io ho lavorato, oltre che a Paco, un altro lavoro importante che si chiama Encerrados, che sono 10 anni di lavoro sulle carceri in Sud America. Ed è l'altro lavoro parallelo a Paco, che proprio racconta il mondo delle carceri. E io ho iniziato la fotografia dopo liceo, quindi da molto giovane. Ho fatto un corso della regione Lazio, poi per alcuni anni la fotografia è stata una passione più che un lavoro. Volevo fare il giornalista, facevo all'epoca il giornalista, scrivevo come freelance per varie testate. Un viaggio in Sud America mi ha un po' cambiato la prospettiva, e niente, ho detto voglio fare il fotografo e voglio occuparmi del mondo sudamericano. E così un po' è stato, ho continuato a studiare fino a che non sono andato in Argentina proprio per la crisi economica del 2001, che è stato il mio primo lavoro da fotoreporter, e da lì un po' è iniziato tutto fino ad oggi. Allora, oltre a ricordare chiaramente la mostra, ci lasci anche dei riferimenti web per saperne di più sulla tua attività? Sì, beh, posso lasciarti mio sito, che è www.valeriobispuri.com, ma comunque ho 3 pagine Facebook dove pubblico in continuazione Valerio Bispuri, e dove pubblico in continuazione foto, eventi, tutto quello che faccio praticamente, e questi principalmente sono i riferimenti. Poi chi vuole può vedere un documentario che mi ha fatto Sky Arte qualche anno fa sul mio lavoro proprio di Paco. Si trova su YouTube, quindi basta mettere Valerio Bispuri. Il primo è questo documentario di 25 minuti che mi ha fatto Sky Arte proprio sul mio lavoro. Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento con le fotografie di Valerio Bispuri, Paco e Drug Story al Museo di Roma in Trastevere dal 25 gennaio al 25 febbraio 2018. Valerio, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie a voi, crepi il lupo.